Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il capo dello Stato ha avviato le consultazioni. E siamo messi di fronte a quella che è una liturgia che dal mio punto di vista sarebbe bene eliminare nel nostro paese. Pensate, il capo dello Stato deve ricevere per le consultazioni 16 delegazioni. Quanti sono i gruppi parlamentari presenti nel Parlamento italiano? Così la pensa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Vincenzo De Luca, col suo solito tono qui all'Ira TV, a proposito delle varie tante consultazioni che ora deve fare, affrontare il Presidente della Repubblica Mattarella, consultazioni per capire, insomma, con i vari partiti, dai più grandi ai più piccoli, fino a gruppetti magari di 3-4 esponenti politici, per capire come si può procedere con un nuovo governo, chi incaricare, insomma, per fare andare avanti il Paese dopo quello che è successo questa settimana. Una settimana ricchissima di eventi politici, a partire dal risultato del dopo referendum domenica, la vittoria travolgente del no, quindi le dimissioni annunciate che già aveva promesso Renzi, di cui poi magari a un certo punto del percorso si era pentito, comunque dimissioni, poi il congelamento da parte di Mattarella e poi la direzione PD e poi l'ufficializzazione, la formalizzazione delle dimissioni, adesso appunto queste consultazioni che dureranno, oggi secondo giorno, dureranno ancora domani, poi si spera che per prossima settimana, già da lunedì magari ci sia un incaricato, un Presidente del Consiglio. Pare che il nome più quotato sia Gentiloni, ma insomma ne parleremo ampiamente in mezzo agli altri temi qui a Effetto Notte stasera, ultima puntata della settimana. Per intervenire, lo sapete, ci sono sempre due canali privilegiati per voi, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure c'è il numero per gli SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Ma vediamo prima di tutto, come sempre, che giornata è stata. Crisi di governo, secondo giorno di consultazioni al Colle, i gruppi minori chiedono elezioni o un governo di scopo, diventa più forte l'ipotesi dell'incarico a Gentiloni per un esecutivo che duri probabilmente sino all'estate. Monte dei Paschi, la BCE nega la proroga MPS per l'aumento di capitale, tonfo in borsa, lo Stato pensa a un intervento in due tempi, ma il CDA della banca valuta un aumento privato. L'italiano ucciso ieri in Brasile, arrestati 7 sospettati, il cugino della vittima li riconosce su un album di ricercati della polizia. Roma, ha ritrovato il corpo della studentessa cinese scomparsa, forse investita da un treno dopo una rapina. La lotta all'Alzheimer, una terapia con flash di luce per fermarlo, è stata testata con successo sui topi e indolore e non invasiva. Doping, secondo il rapporto McLaren, più di 1000 atleti russi sono coinvolti. Il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, dice rifaremo i controlli. E per il calcio, la UEFA approva la riforma della Champions, l'Italia avrà 4 club. Partiamo quindi naturalmente dal procedere della crisi di governo. Oggi è stata la seconda giorno di consultazioni al Colle per arrivare a formare un nuovo governo. Il ministro degli esteri, come vi dicevo, Paolo Gentiloni, potrebbe essere il presidente incaricato di formare un nuovo governo. Il suo nome è quello più quotato, è quello che sembrerebbe compattare il Partito Democratico e viene accreditato anche da altre forze politiche. La Lega lancia però un avvertimento a Forza Italia a non sostenere il candidato renziano neppure in nome della responsabilità nazionale. Così ha detto Giancarlo Giorgetti della Lega, dice: suggerisco a Berlusconi di non compiere passi del genere, abbiamo parlato con Berlusconi e Meloni e altri, non mi sembra che questo sia l'orientamento, dice. Poi però Gentiloni, di lui si parla con insistenza anche perché sarebbe la persona giusta per tenere insieme le diverse tante anime del PD. Abbiamo parlato quindi di cosa ha detto la Lega, salita oggi al Colle, sentiamo anche Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e poi Rocco Buttiglione di Area Popolare. La roadmap che piacerebbe a Fratelli d'Italia prevede una nuova legge elettorale entro la fine di quest'anno, scioglimento delle Camere a gennaio e le elezioni massimo a marzo. L'ipotesi di un governo che nasca senza una data certa per le elezioni è un'ipotesi alla quale in nessun caso vogliamo offrire la nostra disponibilità. È ragionevole fare da subito il governo di grande coalizione. Se questo non fosse possibile, c'è una seconda cosa che invece è possibile. Un governo che continui il percorso riformatore seguito fino ad ora dal governo Renzi e, dall'altro lato, creare per la legge elettorale un tavolo di trattativa al quale tutti partecipino. Quello che sarebbe interessante è sapere la gente, tutti quelli che hanno votato, insomma un'affluenza, ve lo ricordate, enorme, 67%, cosa vuole davvero, quali ritiene che siano le priorità, al di là delle dei dibattiti sulle riforme, sull'Italicum, sulla legge elettorale. Ma parliamo adesso intanto del Monte dei Paschi. Il CDA di MPS informa di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della BCE in merito alla richiesta di proroga dei termini per completare l'aumento di capitale entro fine anno. La banca, si legge in una nota, prosegue pertanto tutte le attività propedeutiche al completamento della predetta operazione. Questo perché oggi una delle notizie principali fino a prima di questo chiarimento era quella secondo la quale la BCE, la Banca Centrale Europea, avrebbe respinto la richiesta di MPS di concedere più tempo per l'aumento di capitale, e oggi si è appreso che lo Stato sta studiando un intervento a due tempi. Lo Stato, che in prima battuta si fa garante di ultima istanza per l'aumento di capitale di MPS per l'acquisto dell'inoptato, e se in effetti l'operazione di mercato dovesse fallire, a quel punto si potrebbe materializzare l'intervento pubblico che andrebbe dispiegato seguendo la procedura europea che prevede il coinvolgimento di azionisti e obbligazionisti per rispettare le regole sugli aiuti di Stato. Questo però è un argomento complesso sul quale cercheremo di fare un po' più chiarezza più tardi, quindi nel corso di Effetto Notte. Passiamo alle notizie dall'estero. In Siria, negli ultimi 4 giorni, il territorio controllato dai miliziani è diminuito di un terzo e 52 distretti di Aleppo orientale sono stati liberati dai terroristi. L'esercito siriano controlla il 93% del territorio della città, così ha detto Sergei Rudolskoy, capo delle sezioni operazioni principali dello Stato Maggiore russo, in conferenza stampa oggi. E ci sono delle novità per l'italiano ucciso in Brasile. Questa svolta nelle indagini per l'omicidio di Alberto Baroli, imprenditore accoltellato da un gruppo di malviventi durante una rapina a Beberibe nel nord-est del Brasile. Dopo l'arresto di una donna avvenuto poche ore dopo il crimine, altre 2 persone sono state catturate nelle ultime ore dalla polizia locale, mentre ulteriori 3 complici sono ricercati. In manette è finito Tiago dos Santos, 26 anni, nella sua casa sono stati trovati diversi oggetti che appartenevano alla vittima. La fidanzata del rapinatore, un adolescente di 16 anni, si è invece consegnata spontaneamente alle forze dell'ordine. E per la cronaca italiana, ritorniamo sul caso delle morti sospette nell'ospedale di Saronno. 2 mesi prima che un'infermiera presentasse formale denuncia per le morti sospette all'ospedale di Saronno, una collega di Leonardo Cazzaniga, una medica, Cazzaniga il medico arrestato, presentò a sua volta la collega un esposto anonimo per manifestare i suoi sospetti sul comportamento dell'anestesista, ma la sua denuncia non venne presa in considerazione. E parliamo del tragico epilogo, sempre restando sulla cronaca italiana, per la ragazza cinese scomparsa a Roma lunedì, investita da un treno dopo uno scippo. Investita da un treno in corsa mentre rincorreva i suoi 3 borseggiatori. Queste le circostanze in cui ha perso la vita Zhang Yao, la studentessa cinese scomparsa lunedì. Il suo cadavere è stato ritrovato in pessime condizioni intorno alle 3 della scorsa notte, nascosto tra le sterpaglie dei cespugli a ridosso dei binari ferroviari. Siamo a Tor Sapienza ed è proprio in questa zona che la giovane, 21 anni, nella capitale per studiare all'Accademia di Belle Arti, era sparita misteriosamente lunedì, dopo essere andata all'ufficio immigrazione, un palazzo tra la bretella che collega la tangenziale all'autostrada per l'Aquila, la Collatina, il campo Rom di Via Salviati. Quel giorno è stata derubata della sua borsa. Una morte in diretta, testimoniata dalla telefonata con un'amica alla quale la vittima stava raccontando del furto e della rincorsa dei suoi rapinatori. Poi le urla, il fruscio del treno, l'impatto e la conversazione che si interrompe bruscamente. Preziose per il ritrovamento del corpo e per la ricostruzione della dinamica dei fatti, le immagini di una telecamera di un capannone di Via Sansoni adiacente alla ferrovia, che hanno ripreso, oltre alla giovane, altre 3 ombre in movimento. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo delle condizioni meteo e dell'inquinamento di questi giorni. Condizioni meteo con nebbia, alta pressione peggiorano la qualità dell'aria dal punto di vista dell'inquinamento, e così in molte città scattano i primi blocchi del traffico. A Roma questa domenica stop ai veicoli privati nelle zone verdi dalle 7.30 alle 20.30, a Napoli blocchi per 4 giorni a settimana, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì. A Milano lo stop potrebbe arrivare lunedì. Misure utili ma solo emergenziali, sottolinea Francesco Forastiere, esperto del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio, al microfono di Laura Bettini. Quelli sono provvedimenti di emergenza che ovviamente servono a stabilizzare la situazione di inquinamento, ma al di là degli interventi di emergenza abbiamo la necessità di ripensare e ristrutturare completamente la circolazione nelle città, di limitare il veicolo privato e di avere un grande sviluppo del trasporto pubblico. In questo momento il problema più grande dell'inquinamento atmosferico per quanto riguarda il traffico ovviamente e i veicoli è rappresentato dai veicoli diesel. Ora il diesel ha un quadro emissivo molto più grave delle altre auto, ovviamente più delle auto elettriche o ibride o a benzina, ed è responsabile sia di inquinamento di polveri fini ma soprattutto della formazione degli ossidi di azoto. Poveri noi. E adesso sto leggendo una notizia arrivata pochi istanti fa che riguarda l'uccisione della mente dell'attacco di Charlie Hebdo a Parigi. Vi ricordate? Un leader del sedicente Stato Islamico dell'ISIS, ritenuto appunto la mente dell'attacco al giornale satirico francese Charlie Hebdo nel gennaio 2015 a Parigi, è stato ucciso in un raid aereo americano in Siria. Lo hanno reso noto stasera fonti militari americane, e anche se per noi può sembrare difficile pensare come siano riusciti proprio a individuare questo attacco dall'alto in un raid aereo proprio quella persona in particolare, comunque lo assicurano appunto fonti americane. Parliamo adesso di una ricerca scientifica che potrebbe essere molto importante nella lotta all'Alzheimer, una terapia con flash di luce. La luce per contrastare l'Alzheimer è l'idea alla base della strategia testata con successo sui topi dei ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, che hanno verificato come una terapia a base di flash di luci stroboscopiche, come quelle della discoteca, insomma negli occhi, pensate, stimoli le cellule immunitarie a divorare le proteine beta amiloide che si accumulano nel cervello causando la demenza. Lo studio è stato pubblicato su Nature e speriamo che abbia ottimi sviluppi. Poi parliamo di doping. Sono più di 1000 gli atleti russi coinvolti nel doping, una vera e propria cospirazione istituzionale, quella che emerge dal rapporto sull'indagine della WADA reso noto oggi a Londra. Secondo quanto affermato dall'avvocato canadese Richard McLaren, che ha compilato il rapporto, il doping riguardava sport estivi, invernali, paralimpici, quindi tutti. La Russia, ha commentato il Ministero dello Sport di Mosca, non ha un programma di doping di Stato da parte sua. E intanto il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che saranno ripetuti tutti i test antidoping che hanno coinvolto gli atleti russi ai giochi estivi di Londra 2012 e quelli invernali di Sochi 2014. Per chiudere parliamo anche di cosa hanno parlato gli italiani quest'anno, in particolare sport, cronaca e poca politica, almeno su Facebook. Il 2016 degli italiani su Facebook? Si è parlato soprattutto di europei di calcio e olimpiadi di Rio, della cronaca con il terremoto e poco invece di politica. Lo dice la classifica degli ultimi 11 mesi, fino al 27 novembre, degli argomenti menzionati sul social network. Al quarto posto dei temi più condivisi la mania di Pokémon Go, poi le elezioni americane, le elezioni di giugno in Italia, la festa di San Valentino, la morte di David Bowie e quella di Bud Spencer. Chiude la classifica italiana la Brexit. Alcuni di questi temi anche nella classifica globale, che in cima vede le presidenziali americane, ma ci sono anche la politica brasiliana con il caso di Dilma Rousseff, il movimento statunitense Black Lives Matter, il presidente filippino Duterte e il Super Bowl. Per la prima volta c'è anche la classifica dei video live. Nel nostro paese i primi due posti sono occupati da dirette su Amatrice dopo il terremoto, a seguire l'arrivo di Virginia Raggi in Campidoglio e una diretta su Padre Pio, che ha battuto in visualizzazioni l'arrivo di Higuain alla Juve. In Italia, al top dei profili più seguiti c'è quello di Chiara Ferragni, mentre il luogo più fotografato è il Colosseo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio per chiudere questa prima parte di riassunto della giornata, vi do anche questa notizia di calcio. La Champions League si riforma e dalla stagione 2018-2019 alle prime quattro nazioni del ranking della classifica europea verranno assegnati quattro posti. Una bella notizia per l'Italia, attualmente al quarto posto nella classifica per nazioni continentale, che potrà quindi raddoppiare le qualificate alla fase a gironi. Direi che con questa notizia abbiamo completato il riassunto della giornata, quindi avete in mente adesso tutte le notizie principali dall'Italia e dall'estero, e tra poco cominceremo ad approfondire i temi, come sempre il venerdì in chiusura della settimana, un bilancio della politica di questa settimana, di questi giorni, che è stata ovviamente ricchissima nel dopo voto. A tra poco, pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre interazioni, oppure il numero 349-238-6666. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Li avete sentiti in pochi minuti all'inizio il riassunto della giornata, come sempre nella prima parte di Effetto Notte, quindi puntualmente accendete alle 21, poi ve li ricordo comunque nel corso della puntata con i titoli principali, quelle che sono le notizie più importanti. Intanto vi ricordo che appunto adesso ci sarà il bilancio della politica della settimana con tutte le cose che sono successe in questi giorni, una settimana inevitabilmente particolarmente intensa. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Per esempio Paolo da Belluno dice: siamo al solito balletto della politica, dopo aver burlato gli elettori adesso qualcuno vuole capitalizzare gli spiccioli votando subito irresponsabili e opportunisti, dice Paolo, il vecchio che avanza. Poi invece Roberto da Modena mi chiede: scusa Roberta, ma quello che ha parlato dopo la Meloni era davvero Buttiglione? Ma è ancora lì? Era Rocco Buttiglione, sì, di Area Popolare. Adesso quindi, prima di cominciare a fare il racconto della settimana politica, vi ricordo appunto i titoli principali. Tegola su Monte dei Paschi sulla crisi, la BCE, la Banca Centrale Europea, respinge una proroga per l'aumento di capitale, il titolo va giù in borsa, si valuta un aumento con i bond retail ed è pronto un decreto dello Stato. Poi parleremo, è una situazione complessa detta così. Secondo giorno di consultazioni per la crisi di governo, il presidente Mattarella accelera, cresce l'ipotesi di un incarico a Gentiloni, intanto Renzi cerca di compattare il PD. In Siria centinaia di uomini scomparsi, preoccupazione da parte dell'ONU, intanto sono ripresi intensi bombardamenti governativi su Aleppo Est. Per quanto riguarda la cronaca, in Italia è stata trovata morta a Roma la studentessa cinese scomparsa, pare sia stata investita da un treno mentre inseguiva degli scippatori. L'italiano ucciso in Brasile, arrestati 7 sospettati, il cugino della vittima le riconosce su un album di ricercati della polizia. Poi il rapporto McLaren che dice che il doping di Stato, la Mosca ha avuto praticamente doping di Stato per 1000 atleti, ci sono ombre sui giochi olimpici. E poi crescono i casi di influenza, ha letto già 500.000 italiani. Mentre per quanto riguarda la musica, Sanremo si allarga, cresce il numero dei big in gara, saranno 22. La mia sensazione è che il 90% dei cittadini italiani hanno ragionato e scelto non sulla base dei quesiti referendari, ma sulla base di una valutazione politica relativa al governo e al Presidente del Consiglio. E come dico io con parole abbastanza brutali ma chiare, hanno inteso dare un pugno nello stomaco al governo e al Presidente del Consiglio. Brutale ma chiaro, Vincenzo De Luca ogni tanto ritorna con le sue dichiarazioni. Qui era Lira TV, il presidente del Consiglio, il presidente della regione Campania, che dice praticamente con questo referendum gli elettori hanno dato un pugno nello stomaco a Renzi, al di là di entrare nel merito o meno della riforma, al di là che invece può essere stato in mille modi, però sicuramente un'affluenza così alta come c'è stata, il 67%, e una vittoria così netta, 59,11% per il no e 40,89% per il sì, significano effettivamente che insomma del malcontento forte c'è nei confronti di Renzi, il quale aveva personalizzato moltissimo questo referendum, e quindi dice De Luca è stato un pugno nello stomaco. Quindi che cosa significa? Che per i cittadini, le cittadine, le priorità sono altre, che la riforma non interessa, o non piaceva quella riforma, o non si voleva che si mettessero le mani su quella riforma. Ma adesso quali sono le priorità per gli italiani e le italiane? Comunque, per riassumere brevemente, abbiamo detto quindi che col voto di domenica vittoria schiacciante del no, affluenza eccezionale che Mattarella ha definito una testimonianza di una democrazia solida, e questo è un dato di fatto, no? Dopodiché cosa ne è conseguito da questo esito? Cominciamo allora con Renzi e da quello che ha detto poco dopo aver saputo della vittoria del no. Come era evidente, è scontato fin dal primo giorno, l'esperienza del mio governo finisce qui. Credo che per cambiare questo sistema politico dove i leader sono sempre gli stessi e si scambiano gli incarichi ma non cambiano il paese, non si possa far finta per l'ennesima volta che tutti rimangano incollati alle loro abitudini prima ancora che alle loro poltrone. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta, e allora la poltrona che salta è la mia. Quindi via la poltrona, però che cosa succede? Che le opposizioni in testa, Movimento 5 Stelle e Lega, hanno chiesto di andare immediatamente al voto con diverse sfumature. Mattarella aveva subito congelato, no, le dimissioni di Renzi, dicendogli no, adesso prenditi la responsabilità di portare a termine la legge di bilancio, di compiere l'iter legislativo, dopodiché insomma potrai dimetterti. E così è avvenuto. Mercoledì il Senato ha votato la fiducia sulla legge di bilancio, anche se poi mancheranno naturalmente i decreti attuativi, quindi non è finita qui, diciamo, l'iter. E poi mercoledì stesso c'è stata la direzione tanto attesa, direzione PD, che doveva essere quella della resa dei conti. In realtà poi Renzi ha fatto delle sue comunicazioni, ha ribadito che è orgoglioso del lavoro fatto dal suo governo, che il PD non ha paura di andare a votare, ma non c'è stato per il momento, è stato rimandato il confronto con la minoranza. Poi che cosa è successo? Che è salito al Colle sempre mercoledì a formalizzare le sue dimissioni, e quindi si è ufficializzata la crisi di governo, e quindi sono cominciate da ieri le consultazioni da parte di Mattarella nei confronti dei vari gruppi politici, partiti politici, fino ai gruppi più piccoli. Oggi secondo giorno di consultazioni, domani ci saranno i partiti maggiori e chiuderà questo giro di consultazioni il PD. I partiti restano nel frattempo sulle loro posizioni di andare al voto subito, forse Forza Italia frena un po'. Vogliamo sentire intanto che cosa hanno detto per esempio in questi giorni, ecco, sentiamo Movimento 5 Stelle con Fico. Vogliamo andare al voto, questo è chiaro ed è chiaro a tutti, questa è la linea del Movimento 5 Stelle. Dobbiamo per forza di cose, e non c'è alternativa a questo, aspettare la Corte Costituzionale il 24 gennaio, e si esprimerà il 24 gennaio. Nel momento in cui si esprime la Corte Costituzionale vedremo i rilievi che avrà fatto all'Italicum e saranno recepiti quelli dalla Camera dei Deputati. E ora per quanto riguarda Forza Italia, Brunetta. Al 100% ti confermo a tutti gli elettori che Forza Italia non darà nessuna fiducia a un governo in questa legislatura. Noi siamo all'opposizione, continueremo ad essere all'opposizione, non c'è alcun problema da questo punto di vista. Però intanto c'è la minoranza PD che in realtà frena su un voto troppo presto, sentiamo. Il sistema alla Camera e quello al Senato sono totalmente diversi e produrrebbero ingovernabilità. Io credo che una forza politica che ha 400 parlamentari in questa fase non può compiere un atto di tale irresponsabilità. Che poi una proposta del genere arrivi da chi fino a ieri ha detto che bisognava dire sì per stabilizzare il paese mi pare sinceramente ancora più singolare. Questo Roberto Speranza, esponente della minoranza PD. Sentiamo anche che cosa ha detto naturalmente Salvini, leader della Lega. Per rispetto nei confronti di 30 milioni di italiani che sono andati a votare, voto subito, il prima possibile, io dico con qualunque legge elettorale. La Lega dice con qualunque legge elettorale, faccia in fretta la consulta, faccia in fretta il Presidente della Repubblica. L'Italia ha bisogno di un Parlamento e di un governo legittimi e seri. Sicuramente hanno escluso un Renzi bis, e lo diceva anche Cuperlo in serata, che anche lui stesso Renzi smentisce che ci possa essere un Renzi bis. Allora adesso che cosa ci vuole? Un governo a tempo, un governo di scopo. Pare che la ipotesi più accreditata sia quella di incaricare il ministro degli esteri Gentiloni e andare fino all'estate. Ma cosa dice la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore? Buonasera Barbara. Buonasera a tutti. Quindi aiutaci a fare un po' di luce, diciamo, in tutte queste articolazioni. Diciamo che poi in questi casi ci sono tante chiacchiere, e che le chiacchiere si scioglieranno soltanto quando il capo dello Stato indicherà il nome per succedere a Matteo Renzi. Continua anche i boatos su ipotesi di reincarico di un Renzi che verrebbe rimandato davanti alle Camere, insomma. Cioè, ancora siamo in una fase molto... È vero che oggi cresce molto il nome di Paolo Gentiloni. Io credo che il nome del Premier indicherà anche la volontà politica del Partito Democratico, nel senso che il Partito Democratico, essendo il partito di maggioranza, è chiaro che è quello che poi determina, no, gli scenari futuri della legislatura. Allora, se il Partito Democratico andasse verso un'ipotesi Gentiloni, cioè di un uomo vicino a Renzi, mi sembra chiaro che l'ipotesi di andare al voto in tempi rapidi si concretizzi, nel senso che Renzi è, insieme a Grillo forse e a Salvini, quello che più punta ad andare presto al voto. E quindi il timore in realtà di Renzi è stato sempre quello che si formasse un governo che poi portasse a compimento la legislatura. Abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, il vitalizio dei parlamentari. Sì, e che devono arrivare a settembre 2017. Sì, comunque i parlamenti non sono mai contenti di andare a casa, in generale, questo nella storia proprio della Repubblica, quindi tendenzialmente preferiscono restare. Ed è evidente che se c'è un governo con un premier, insomma, diciamo non vicino a Renzi, ecco, usiamo questa espressione, e con la formazione di un governo nuovo, con ministri nuovi, sottosegretari nuovi, l'idea che questo governo possa durare qualche mese, insomma, non ci crederebbe nessuno, credo. Quindi, non ci credi tanto neanche tu. Senti, a proposito, scusami, di Gentiloni, allora vedo adesso Di Maio, una dichiarazione di Di Maio del Movimento 5 Stelle, che dice Gentiloni sarebbe avatar di Renzi, mentre Di Battista, sempre del Movimento 5 Stelle, oggi scriveva su Facebook: sapete cosa stanno pensando i politici del PD? A quale presidente scegliere per fare la legge elettorale contro il Movimento 5 Stelle senza che vi sia il rischio di oscurare Renzi, che certamente si ricandiderà a Palazzo Chigi. Per questo nelle ultime ore si fa il nome di Gentiloni, dice non interessa al PD risolvere i problemi dei cittadini, gli interessa risolvere i problemi loro. Di Gentiloni sarebbe perfetto, perché dice no, è poco carismatico, è un renziano di ferro e serve a loro, non al paese. Ma il punto è molto semplice. Allora, anche qui il Movimento 5 Stelle, per esempio, rispetto alla Lega, no, ad altri partiti dell'opposizione, dice va bene un Renzi bis purché ci porti al voto. Quindi diciamo, l'obiettivo è andare al voto presto. Benissimo. Renzi ha detto che lui al governo non ci sarebbe stato se avesse perso il referendum e non intende, almeno per il momento, diciamo per il momento perché come sempre le cose poi possono prendono cambiare. Altre pieghe, ecco. Sì, non intende rimanere a Palazzo Chigi. Quindi rispetto a questo, diciamo a questa problematica, la soluzione è quella di un premier che sia disponibile a staccare la spina. È un po' quello che dicevo prima, no? Cioè, se tu hai un governo, cioè pensiamo alle discussioni per le formazioni di governo, chi fa il ministro degli interni, chi fa gli esteri, chi fa. Allora è evidente che se ci fosse la formazione di un nuovo governo con tutti i ministri nuovi, non è pensabile che questo governo duri 3 mesi, no? Ecco, se l'obiettivo è andare presto a votare, soltanto Renzi o una persona molto vicina a Renzi può garantire che si vada al voto presto. Questo è cioè questo è il dato oggettivo. Qualunque altro tipo di premier difficilmente potrebbe garantirlo questo obiettivo. Quello che dice il Movimento 5 Stelle è vero, cioè è vero che Gentiloni, essendo un uomo molto vicino a Renzi, è uno che una volta fatta la legge elettorale staccherebbe la spina, cioè si dimetterebbe. Poi è vero anche che i ruoli spesso fanno gli uomini e quindi magari una volta arrivata a Palazzo Chigi anche Gentiloni si potrebbe affezionare, questo non lo sappiamo. Però, sì, perché poi è accaduto anche questo nel passato, quindi chiaro, però, parliamo di esseri umani. Barbara, senti, tra i vari ascoltatori, per esempio, ecco, quello che la domanda è, al di là appunto con quale legge si vada a votare, abbiamo detto che la consulta si pronuncia sull'Italicum il 24 gennaio, mentre questo ascoltatore, sì, un po' precipitoso, Tiziano da Muggia, vicino Trieste, dice unica via per uscire dalla palude politica, riforma della legge elettorale in 7 giorni, che non è possibile perché la consulta ha già detto che lo farà il 24 gennaio, si pronuncerà con un esecutivo, dice, di scopo proporzionale puro sia alla Camera che al Senato ed elezioni subito entro febbraio 2017, questo detta Tiziano. Mentre a proposito, dimmi. Scusami, ma il nostro ascoltatore non dice una cosa così campata in aria, nel senso che il Parlamento è pienamente legittimato a legiferare, cioè se volesse la legge elettorale in 7 giorni la potrebbe fare. Il problema qual è? Che si dice, ma quindi si vuole aspettare l'Italicum o si può fare una legge elettorale in 7 giorni? Secondo no, allora se ci fosse una volontà politica di fare una legge, si fa la legge. Ma te l'immagini in questo momento discutere in soli 7 giorni e tirar fuori una legge? No, non solo, sì, ma nessuno ha intenzione di avallare questo tipo di percorso. E per di più il discorso sull'Italicum è un discorso che fa comodo a tanti, perché l'Italicum, dopo essere stato osteggiato, adesso i 5 Stelle l'hanno fatto loro perché dicono che è la legge che insomma gli garantirebbe, come ha detto appunto Di Battista o Di Maio, non mi ricordo, vogliono adesso togliere l'Italicum perché non ci vogliono andare a far governare, però fino all'altro giorno l'Italicum era la peggiore delle leggi possibili. Il Forza Italia, la Lega, in realtà temono una legge tipo Italicum, ma proprio perché rischierebbe di tagliarli fuori. E quindi è evidente che in una situazione del genere è molto difficile trovare una maggioranza parlamentare poi che si ritrova su un progetto. Quindi che cosa si aspetta? Si aspetta la sentenza della Consulta che dia delle indicazioni, per cui ci dirà questo va bene, questo non va bene, e a quel punto, siccome solitamente le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi elettorali sono autoapplicative, allora a quel punto basterebbe poco per rendere omogenea la legge della Camera, che è l'Italicum, la legge modificata dalla Corte Costituzionale, con quella del Senato. Ecco, questa è la cosa che si dovrebbe fare. Ma questo significa che si potrebbe arrivare alle elezioni, almeno questa è l'idea di Renzi. Renzi vorrebbe che una volta arrivata la sentenza della Corte Costituzionale e fatto un sistema per cui i due sistemi di Camera e Senato, insomma, sono abbastanza omogenei su tutto non lo potranno mai essere, ma comunque abbastanza omogenei, a quel punto si vada a votare. Qual è la data? Già si parla della data delle elezioni. Marzo. Allora, no, marzo mi sembra veramente presto, perché calcoliamo che la sentenza arriva il 24 gennaio, per quanto facciano veloci gli vogliamo dare una ventina di giorni, anche perché la sentenza verrà depositata, le motivazioni le dovranno conoscere, le dovranno leggere, si arriva ai primi febbraio con le motivazioni, quindi fine febbraio io direi potrebbe esserci una legge elettorale, a quel punto si sciolgono le Camere, arriviamo a maggio. Maggio quando? Maggio. L'idea è maggio prima del G7, che si svolgerà, se non sbaglio, il 25 o il 26, non mi ricordo, di maggio, e quindi in modo che al G7 arrivi il governo pienamente legittimato che avranno deciso gli italiani. Belle prospettive. Barbara, senti, a proposito delle priorità, no, degli ascoltatori e delle ascoltatrici, perché appunto diceva De Luca col suo linguaggio ha tirato un pugno nello stomaco a Renzi, per quale motivo? Evidentemente il malcontento c'è. C'è la disoccupazione ancora molto alta. Senti, allora dice qualche ascoltatore: Cristiano, si può andare a tagliare nastri dappertutto, all'Itacia, alla Lamborghini, Ferrari, ovunque, persino attorno agli anelli di Saturno, purché siano gesti pareggiati all'incontro con i lavoratori di Almaviva, gli studenti del Sulcis, ad ogni anfratto sociale che chiede ascolto e presa di coscienza. Poi per Piero invece va risolta prima di tutto la crisi bancaria, cioè di mezzo MPS, di cui parleremo poi più tardi. Anna dice: la legge elettorale per permettere alla gente di esprimersi col voto. Per Francesco la riforma elettorale è ordinaria amministrazione, il nascituro governo non dovrebbe servire ad altro, mentre per Gaetano a mente fredda possiamo dire che il referendum è stato su tutt'altro che la riforma, svilito, ora possiamo iniziare a pentirci. Vediamo se c'è qualche altra priorità. La cosa più urgente da realizzare, dice Stefano, sarebbe la diminuzione del livello di faziosità della politica. Siamo al punto che non ci sono più contenuti e proposte. Insomma, queste un po' di idee così di alcune ascoltatrici. Ma guarda, adesso non vorrei essere, come dire, fare del facile qualunquismo, però io credo che quando si parla del disagio sociale, problemi della disoccupazione, sono tutte cose reali. Dopodiché c'è un problema che riguarda chi governa, a prescindere dal colore politico di chi governa. Chiaro. Ovvero, quando le situazioni sono complicate, sono difficili, qual è quello attuale? Cioè, prendiamo il caso di Almaviva o di altre situazioni, che per cui questi lavoratori vengono licenziati perché altrove le imprese trovano lavoratori, magari in Romania o in Albania, da che costano molto meno. Benissimo, allora questi problemi non è un governo che li risolve soltanto se si torna ad investire, cioè la priorità sono gli investimenti e creare occupazione, perché se noi pensiamo che un governo diverso risolve il caso di Alma, cioè sono difficilmente risolvibili questi casi se non si interviene creando nuovo lavoro, nuova occupazione. Anche gli incentivi, si è detto, il governo Renzi li aveva messi, finiti gli incentivi l'occupazione non è più cresciuta. È normale tutto questo, cioè se non ci sono nuove imprese, nuovi posti di lavoro per lavori che in Romania e in Albania non si possano ancora fare, difficilmente l'occupazione tornerà a crescere. Barbara Fiammeri, ci dobbiamo lasciare, ci ritroviamo tanto settimana prossima. Buon fine settimana a te. Grazie, arrivederci. Ciao Barbara. Ora dobbiamo prendersi una pausa e voi continuate con le vostre osservazioni, le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, al 349-238-6666, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, le vostre osservazioni e riflessioni sui temi della giornata. Abbiamo parlato molto naturalmente della crisi di governo, che diciamo è l'argomento principale che riguarda il nostro paese in questo momento, le consultazioni che continuano, siamo al secondo giorno e Gentiloni sembra il nome più quotato al momento, quello del ministro degli esteri. Dice questo ascoltatore Luciano da Imola, il malcontento si può dimostrare senza continuare a strapagare 315 inutili senatori, senza dover salvare MPS di tasca nostra, perché i fondi esteri scappano da un paese di pazzi che fanno dispetti politici, costi quel che costi, dice. Tra poco parleremo infatti di MPS, però prima di tutto vi ricordo, se l'avete acceso puntualmente alle 21, che le notizie più importanti sono queste. Crisi di governo, secondo giorno di consultazione al Colle, i gruppi minori chiedono elezioni o un governo di scopo, diventa più forte l'ipotesi dell'incarico a Gentiloni per un esecutivo che duri probabilmente sino all'estate. Monte dei Paschi, la BCE nega la proroga MPS per l'aumento di capitale, tonfo in borsa, lo Stato pensa a un intervento in due tempi, ma il CDA della banca valuta un aumento privato. L'italiano ucciso ieri in Brasile, arrestati 7 sospettati, il cugino della vittima le riconosce su un album di ricercati della polizia. Roma, ritrovato il corpo della studentessa cinese scomparsa, forse investita da un treno dopo una rapina. La lotta all'Alzheimer, una terapia con flash di luce per fermarlo, è stata testata con successo sui topi, è indolore e non invasiva. Doping, secondo il rapporto McLaren, più di 1000 atleti russi sono coinvolti. Il CIO dice rifaremo i controlli. E per il calcio, la UEFA approva la riforma della Champions, l'Italia avrà 4 club. Quindi la vicenda di MPS con un nuovo capitolo, la Banca Centrale Europea ha respinto la richiesta della Banca di Siena di concedere più tempo per l'aumento di capitale, la Banca Senese aveva chiesto 20 giorni di proroga alla Vigilanza Europea per cercare di chiudere la ricapitalizzazione di 5 miliardi sul mercato, ma da Francoforte la risposta è negativa, anche se poi l'ultima agenzia di aggiornamento di una nota di MPS che dice non abbiamo ricevuto in realtà nessuna comunicazione ufficiale, noi andiamo avanti, intanto lo Stato pensa a un intervento in due tempi. Ma per fare un po' di chiarezza su questa vicenda così complessa, chiedo lumi a Salvatore Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Chicco. Buonasera, ciao Roberta. Allora, io vorrei innanzitutto, se tu potessi, so che è questione molto difficile, però fare un piccolo riassunto della vicenda MPS. Perché siamo arrivati a questo punto? Dunque, innanzitutto diciamo che MPS, Monte dei Paschi di Siena, è, pensa, la più antica banca del mondo. 1472 nasce a Siena, insomma, tantissimi anni fa. Quindi un'origine gloriosa, sì, però in questo momento... Esatto, diciamo, è molto difficile scegliere il punto da cui partire, però diciamo che tutti i guai cominciano tra il 2007 e il 2008, quando il Monte dei Paschi di Siena, diciamo, preso un po' così dalla voglia di crescere, una banca molto antica e molto forte, pensa di crescere e quindi fa un'acquisizione, quella di Banca Anton Veneta, che poi si rivela, qui senza entrare in particolari, però insomma si rivela un vero disastro. Pensano di comprare una banca per 9 miliardi di euro, ma poi si trovano altri 7,5 miliardi di debiti a carico, l'operazione costa tantissimo, eccetera. Da lì, diciamo, poi arriva la crisi, arrivano le varie cose e Monte dei Paschi si trova più volte costretta a rivolgersi al mercato con operazioni di aumenti di capitali, addirittura chiede allo Stato i famosi Tremonti Bond per ricapitalizzare, e arriviamo, diciamo, più ai giorni nostri. Io tornerei, diciamo, alla fine di luglio scorso, quando arrivano i famosi stress test per verificare a livello europeo la tenuta del capitale delle banche, e Monte dei Paschi di Siena è l'unica che viene, diciamo, bocciata, respinta a questo test, quindi i suoi parametri di capitale non sono conformi, sono, diciamo, a rischio. Però contemporaneamente, lo stesso giorno, era il 29 luglio del 2016, il MPS riesce con la BCE a, diciamo, mettere a punto un piano per arrivare, diciamo, al salvataggio e al rilancio della banca. Questo piano prevedeva la cartolarizzazione, cioè la vendita di più di 27 miliardi di NPL, i famosi non performing loans, i crediti deteriorati, però prevedeva anche un aumento di capitale fino a 5 miliardi di euro, che è quello, diciamo, che si sta facendo in questi giorni. In realtà l'aumento di capitale, diciamo, è in pratica già partito alcune settimane fa, perché MPS ha tentato di, diciamo, chiedere ai risparmiatori in possesso di obbligazioni di convertire queste obbligazioni in azioni, e ha raccolto con questa operazione circa più di 1 miliardo di euro. Quindi, diciamo, dai 5 miliardi che era l'aumento di capitale, se ne toglie uno, restano 4 miliardi da raccogliere. Bravissimo. I tempi stringono, anche perché è una vicenda naturalmente non solo con implicazioni economico-finanziarie, anche politiche, no? Anche politica, perché purtroppo l'aumento di capitale, vero, no, è andato a coincidere con la crisi di governo. Mm. E quindi adesso che succede, per sintetizzare? Per sintetizzare succede esattamente quello che hai detto tu, che MPS tenta di andare avanti e tenta di fare un aumento di capitale rivolgendosi al mercato. Mm. C'erano trattative in corso con il Fondo Sovrano del Qatar, che doveva mettere 1 miliardo, altre banche dovevano mettere dei quattrini per arrivare circa 2, e poi il resto si trovava sul mercato. Ovviamente il Qatar, adesso che non c'è il governo, si è un po' tirato indietro. E quindi? In ultima, diciamo, l'ultima ipotesi è che non si riesca a fare questa operazione di mercato e che quindi lo Stato, diciamo, ci mette a intervenire. Come? Diciamo, l'intervento dello Stato è sempre un pochino, diciamo, rischioso, perché verranno probabilmente tutelati, anche se non sappiamo come, gli investitori privati, il retail, che ha circa 2 miliardi di obbligazioni subordinate del Monte dei Paschi, mentre le obbligazioni subordinate degli investitori istituzionali saranno automaticamente convertite in azioni. Insomma, vedremo un pochino che cosa succederà. Tu hai detto che MPS sta tentando in tutti i modi un blitz per fare questo aumento privato. Domani ci sarà di nuovo un CDA e capiremo un po' di più. Intanto vedremo se arriverà la conferma della notizia che della vigilanza, della BCE non ha accettato la richiesta di proroga della ricapitalizzazione. Grazie Chicco Padula del Sole 24 Ore, buon lavoro Chicco. Grazie, ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In pochi secondi ve le ricordo, Roberta Giordano con voi, le due principali: la crisi di governo con il secondo giorno di consultazioni al Colle, i gruppi minori che chiedono elezioni o un governo di scopo, e diventa più forte l'ipotesi dell'incarico a Gentiloni. Monte dei Paschi, ne abbiamo appena parlato, con la BCE che nega la proroga a MPS per l'aumento di capitale, tonfo in borsa, lo Stato pensa a un intervento in due tempi, ma il CDA della banca valuta un aumento privato. Europa 24 notte. Per l'Europa parliamo della direttiva Bolkestein, che allarma gli ambulanti che ne chiedono la sospensione, sarebbe operativa nel 2017 e promuove la libera circolazione dei servizi ma non tocca le garanzie. A un passo dal Natale, con le sue innumerevoli bancarelle e rivenditori ambulanti di ogni delizia ed oggetto, e a un passo dalla ricaduta a pioggia dell'applicazione pratica su di loro delle nuove regole della direttiva Bolkestein. Stringono i tempi ed emergono sempre di più criticità. La direttiva è nata per fare da volano ai servizi che rappresentano il 70% dell'occupazione in Europa, e la loro liberalizzazione aumenterebbe l'occupazione e il PIL dell'Unione Europea. Ma da mesi salgono le voci delle manifestazioni in diverse città in Italia contro il decreto legislativo che la attua. Licenze e posteggi saranno riassegnati con gare pubbliche. Questo rischia di mettere in difficoltà piccole e piccolissime imprese locali, che potrebbero perdere il posto occupato da una vita, perché poco competitive sui mercati troppo vasti, e rischia di mettere in crisi lo stesso commercio ambulante su aree pubbliche. Ma a volte nemmeno queste micro imprese conoscono se e come sono coinvolte, come questi operatori del mercatino del gusto di Natale di City Life a Milano. Bisognerebbe conoscere nello specifico quali sono le norme che regolano questa legge. Insomma, qui questo è un progetto chiuso che è stato voluto così per valorizzare questa area nuova di Milano, con un tema preciso che è il tema del gusto, il tema del food. E a Venezia chi gestisce le bancarelle tradizionali è più informato e fa un parallelo con le spiagge. Le informazioni che abbiamo sono queste: che non ha, che l'Europa l'ha accolta. Solo l'Italia l'ha accolta, e qualche altro paese, ma non si sa chi. Prima era nata per le spiagge, e tutte le spiagge, magari, che so, se le prendono i tedeschi, se le prendono gli inglesi, ci sono più, e non restavano più in mano agli italiani. È la nostra vita. io ci ho dato 45 anni di lavoro qua, vanno a bando. E mettetelo un po' in regola, chiaramente, anche a Venezia ci sono dei problemi. A Bolkestein è stata una cattiveria. E che ci siano da rivedere delle cose, questo è indubbio. Io sarei più per... cioè, ci sono delle regole che non funzionano adesso probabilmente. In città come Venezia ci sono delle situazioni che sono irregolari, nel senso che ci sono delle attività che negli anni sono diventate abusivamente fisse. E si può rivedere cercando di salvaguardare, secondo me, attività e famiglie, anche perché da quanto leggevo sono più o meno 200.000 attività in giro per l'Italia. C'è un sacco di gente che fa sti lavori. La scorsa settimana, prima del referendum, il governo aveva annunciato di lavorare a una proroga al 2020 della scadenza di ogni concessione esistente. Ora è tutto in stallo. Secondo Confimpresa Italia, sono a rischio 1 milione di ambulanti, compreso l'indotto. Rimane perciò in stand-by la richiesta di Imprese Oggi, che raccoglie gli ambulanti dell'associazione, al governo di intervenire per sospendere l'applicazione della nuova normativa fin da subito. Ma forse pochi sanno che oltre alle liberalizzazioni ci sono delle garanzie e non si toccano le tradizioni, anche quelle di Natale. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora è tempo di sapere che tempo farà col nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, portatore sano di sole. Mi sembra che chi sta facendo il ponte se la passa bene, Paolo. Ma sì, guarda, l'unico vero problema resta la nebbia in pianura padana. Anche nel weekend avremo cielo grigio in tutta la Val Padana, e tra l'altro anche con temperature davvero bassine. In alcuni casi non si va oltre i 3-4 gradi, mentre nel resto d'Italia ci sono zone dove tocchiamo i 15-16 gradi, figurati te. Per domenica ti segnalo qualche nuvola in più tra Liguria e Toscana, magari anche con due goccioline, ma davvero poca roba. Invece, cara Roberta, mettiti il cuore in pace, mercoledì arriva il freddo in tutta Italia, temperature in diminuzione da nord a sud, insomma davvero l'inverno bussa alla porta. Mi sembrava già abbastanza freddo. Senti, abbiamo ancora 30 secondi per parlare di certificati? Brava, esatto, i meteorologi italiani finalmente iniziano a essere certificati, nasce la lista dei meteorologi appunto certificati, cioè meteorologi professionisti veri, non solo autodefiniti così, e quindi Trebi Meteo a tutti i propri meteorologi già certificati, siamo fieri di questo, a breve anche altri sicuramente si aggiungeranno a questa lista, ma finalmente in Italia si mette un po' d'ordine a questo disordine meteorologico. E Paolo Corazzon c'ha il bollino, quindi certo. È certificato, grazie Paolo, buon grazie tempo a te, ciao buon Paolo. Tempo. Ci riaggiorniamo brevemente alle 22.